Buonasera cari amici, la tela sonora, Giulietta e Gabri T, in regia ben tre registi, Gentian, Paola e Benjamin. Questa buonasera. Ecco, bene, buonasera. Allora, questa sera abbiamo due artiste, due poetesse, Giuliana Lucchini Bononi e Federica Trenti, che ci presenterà la storia di Joyce Lussu, Sibilla del Novecento. Quindi andiamo in ordine. Adesso, se la regia poi è pronta, volevamo mandarvi il primo sonetto tratto da il libro, magari Giulietta, Sonnets, William Shakespeare. E la traduzione è avvenuta grazie al lavoro veramente incommiabile di Giuliana Lucchini, che poi avremo al telefono, con musica di Victor Fengstein. Abbiamo i sonetti in inglese e anche in italiano, ma avremo Giulietta che ci leggerà il sonetto in tedesco, vero? In quel caso la traduzione è di Hans Meyer. Perfetto. La casa editrice multimedia, Ombra d'oro editrice multimedia. Benissimo, non so se Gentian sia pronto. Benissimo, sentiamo il sonetto allora. William Shakespeare, a selection from the sonnets, read by Christopher Lyndon G. Sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life. Sonnet number 30. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear time's waste. Then can I drown an eye, unused to flow, for precious friends hid in death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and moan the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances foregone, and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of four bemoaned moan, which I knew pay, as if not paid before. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored, and sorrows end. Benissimo, scusate, stiamo aggiustando i microfoni per potervi parlare al meglio. Allora, Giulietta, quindi io leggo la traduzione in tedesco dello stesso testo tradotto da Hans Meyer. Soll ich dich einem Sonntag vergleichen, der du ja lieblicher und milder bist, mein Winde rau um zarte Knospen streichen, des Sommers Pacht hat gar zu kurze Frist. Zu heiß. Dein Groll der Stein verdeckt. Und Schönes scheidet oft vom Schönen wieder, durch Wechselfälle der Natur befleckt. Dein ewiger Sommer nun wird nie verblassen, noch je das Schöne mangeln, das du hast, noch dich zum Trotz im Todesschatten lassen, wenn Zeit dich reift, im ewigem Reim gefasst. Solang man atmet oder Augen sehen, solang lebt er und du wirst fortbestehen. Bene, allora, adesso io vado, magari Giulietta vai di là e chiami, bisogna chiamare Giuliana Lucchini al telefono mentre io parlo. Sai come funziona? Ti do tutto, ok? Mi lasci quello lì, perfetto. Ok, allora, Giuliana Lucchini ha pubblicato 4 libri di poesia in una varietà modale, cioè si è andata delineando una scelta stilistica per la quale ogni suo libro è diverso dall'altro, per approccio di linguaggio e per prospettiva, per contenuto. Quindi, a parte il libro, diciamo, i sonetti che abbiamo ascoltato, che è più un puro esercizio di selezione di sonetti e di traduzione, abbiamo 3 libri di Giuliana. Quindi, primo libro risulta lirico, esposto, tutto immerso nella morte del padre. È diviso in 3 parti, al momento cruciale, dopo un mese dall'evento, dopo 2 mesi e dopo 3 mesi. Il vuoto d'aria del titolo diventa radice del mito, il mito del creatore. Leggerà poi alcune parti del libro a sua scelta. Il secondo libro invece prende le distanze dall'io. L'autore non vuole essere direttamente coinvolto, quindi la materia si teatralizza. Vivere il 2 è il momento drammatico colto nel rapporto cruciale fra 2 persone, vissuto nella maschera dei personaggi. Sempre per il confronto a 2, al palcoscenico partecipano poeti in eco, fra citazioni dichiarate e involontarie, lacerti nella mente di un amore. E anche di questo leggeremo alcune pagine. Il terzo libro può dirsi psicologico, scritto in inglese, in un periodo in cui parlava e pensava ogni giorno in inglese, rappresenta la cifra di ciò che è possibile. Basta volerlo, e anche il rincorrere qualcosa che non si trova. Il quarto libro, invece sperimentale, è un tentativo di esprimersi in un linguaggio diverso, fuori dai canoni convenzionali. Ma c'è anche inserito qualcosa di più semplice, come dice lei. Negli ultimi 3 libri anche l'ironia gioca il suo ruolo. Dopo questi libri ha ovviamente altri libri che sono inediti. Infatti le rimaneva da indagare la semplicità. Ha scritto quindi un volume di haiku, applicati ai 3 momenti della vita, e il sesto affronta il quotidiano vivere. E seguono raccolte a tema per giungere infine a poesie molto brevi che deve riorganizzare, quindi poesie sparse e occasionali che sono fuori raccolta. Allora, nell'attesa, perché mi sembra di capire che non ci siamo ancora con Giuliana, io vi leggo una cosa bellissima che tra l'altro ho scoperto per caso, anche se il caso, diciamo, non esiste. Dentro al libro Linea di corpo ho trovato una spiegazione, una poesia, non lo so, ve la leggo. Linea di corpo. Ricerca di linguaggio come veicolo di pensiero, con modalità di espressione altre. Tentare strade nuove. Musicalità nel tono del segno. Sottesa ironia. Il significato infralinea nel corpo del significante. La solitudine del corpo. Un risultato spesso solipsistico per la difficoltà di raggiungere un dialogo aperto con il lettore, chiamato a ricreare, interpretare in proprio ciò che legge. Ecco, diciamo che forse ci siamo. Bene. Ok, Giuliana, ci senti? Sei Daniela? Ciao, come stai? Ciao! Guarda, oggi è una giornata, piove come non mai. Anche a Roma. E avevamo un po' di problemi con i microfoni, ma ci siamo riusciti a mettere, diciamo, a metterci in contatto con te. Io, buonasera, Giuliana. E cioè, hai qui dall'altra parte Giulietta, che è stata lei, diciamo, a contattarti al telefono. E mentre, buonasera. E mentre Giulietta ti chiamava, io ho spiegato un attimino la tua traccia che mi hai gentilmente inviato per spiegare ai nostri radioascoltatori un attimino la differenza fra i vari libri che hai spedito qua in radio. Sì, quindi grazie. Abbiamo anche lanciato due sonetti di William Shakespeare proprio per iniziare la puntata, quindi adesso ti lascio il microfono. E parlo con chi? E parli con Giulietta e me, quindi... Sì. E quindi ripeto quello che già ti ho scritto. Ma io ci terrei, sì, a che tu spiegassi meglio il perché di questa scelta, anche quindi di questa varietà modale, e poi, se hai voglia, di leggerci alcune poesie che hai scritto, sì. Perché questo è lo scopo della radio. Va bene, infatti. Benissimo. Ok, vai. Va bene, se tu vuoi suggerirmi, altrimenti scelgo io. No, scegli tu, perché io ho visto la tua traccia che è perfetta. Io ieri sera me le sono lette tutte, e quindi vai tranquilla. Sì, non so se devo dare più tempo a uno o l'altra, non so. Come ti senti libera, come ti senti? Un poco, cercherò di essere... veloce. D'accordo, tranquilla, sì. Tranquilla. Grazie. Pronto. Eccoci. T'aspettiamo. Sì. Lusingata di essere partecipe di questa trasmissione. Sì, senti, adesso io quando ti do il microfono sei tu che parli, quindi se ci vuoi raccontare un attimino... E devo indirizzarmi agli ascoltatori? Sì, sì, siamo tutti qua che ti ascoltiamo, quindi sei in radio, sei in diretta. Va bene. Vuoi iniziare forse a leggere un testo? E cominciamo subito con un testo, oppure dico che appunto questi miei libri sono vari per modalità? Mm-hmm. Come volete? Come vuoi tu, quando hai il microfono parli tu e dici quello che vuoi. Ah, va bene, allora comincio adesso? Sì, sì, sei già in linea, sei in diretta. Ah, sono già in linea. Allora, come sapete, ho pubblicato 4 libri di poesia in una varietà che diciamo modale, cioè si è andata delineando spontaneamente una scelta stilistica per la quale ogni mio libro è diverso dall'altro per approccio di linguaggio e per prospettiva, per contenuto. E così poi l'ho voluto proseguire. Il primo libro risulta lirico, cioè esposto, tutto immerso nella morte del padre, diviso in 3 parti: il presentimento, il momento cruciale dell'evento, il riviverlo nella mente dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi. Il vuoto d'aria del titolo diventa la radice del mito, il mito del creatore. Posso leggere qualche poesia un po' meno privata? Sì, d'accordo. La notte è nera di risonanze, taccia, sferza i morti sul viso il verso del gufo. Gli incappucciati battono il tamburo e, ricamati di sangue, i flagellanti nudi urlano, bianchi nel fumo dell'incenso acre. Un'altra. Bene. Più leggera. Sì, sì, vai tranquilla. Cirri di nuvole interrogano il vento importuno. Una gallina plastificata, tela d'olanda tra punta di stelle, veste all'interno di seta cremisina, e cammina. Dal tralcio il grappolo d'uva si spreme, dissolto sulle mani nude. Tu che non guardi, silenzioso e tragico, e cammina, disinvolta verso l'inverno, cammina. Una terza. Albero labirintico di percorsi segreti, il suo corpo che si allontana e sfigura perfino le radici delle memorie apparenti, spezza i nodi, i rami, distorna i fiori, i figli, ci lascia esterrefatti, stupiti, si rigidisce, si scompone, si vieta. Nella piramide di fuoco scompare, dove segnale di passo per la missione alla via, si stampa sullo stendardo dell'ovest, come colomba, bianco, come lucchetto, chiuso. Ok, queste poesie. Il secondo libro. Ecco, questa che libro era? Perché non l'abbiamo detto. Questo è il primo libro che si chiama Vuoto d'aria, radice del mito. Benissimo, che è l'unico che forse non mi hai spedito. Sì, perché non l'avevo a disposizione, però okay. Farò avere. Va bene. Possibile. Invece adesso leggerai. Invece il secondo libro. Sì. Prende le distanze dall'io autorale, la materia si teatralizza. Chi scrive non vuole essere direttamente coinvolto. Vivere il due è il momento drammatico, cruciale dell'azione nel rapporto fra due persone, vissuto nella maschera dei personaggi, giocato sull'emozione. Al palcoscenico partecipano anche versi di poeti in eco, sempre per questo rapporto del due, fra citazioni e involontari lacerti di memoria, voci d'amore. Thomas Stearns Eliot, non per niente citato ad apertura del libro, l'aveva già fatto di citare nei suoi versi altri autori. Fra le brevi che sceglierei, sì, per la necessità, vorrei leggere a pagina 116 e 136 116 che vorrebbe essere spiritosa. Duetto d'amore, sì, finale. L'ho letta. Opera. L'ho letta. Opera vera. In giro imus nocte ecce et consumimur igni. Questo è un corsivo a destra per dire andremo in giro di notte e il fuoco ci consumerà. Sono due voci. Sulla radura dove a notte danzano ancora le streghe, mi raggiungerai nel buio della foresta e là, fosforescente, ti attenderò come preda. Dove il lucore come miele adesca verrò, collana luminosa ti dislaccerò, a grani o pelle d'angelo ti sfilerò per rinfilarti perla che imprigiona. Tutti i salmi finiscono in gloria, questa chiusura. V'è nella selva nera una leggenda che delle villi la leggenda è detta e ai spergiui d'amor suona tremenda. Se muor d'amore qualche giovinetta, nella selva ogni notte la tregenda viene a danzare e il traditor vi aspetta. Poi se l'incontra, con lui danza e ride e con la foga del danzar uccide. Questo è il testo di Fontana per le villi di Giacomo Puccini. Mm-hmm. Quindi Giuliana, se capisco bene lo spirito... Come? Se capisco bene lo spirito di vivere il due, è che tu metti in dialogo i tuoi testi con testi di altre voci. Anche. No, non sempre, ma insomma, sì, c'è questo rapporto di vivere il numero due fra due persone, fra due condizioni diverse, ogni volta rappresentate da situazioni varie. Perché ad aprire la raccolta c'è una citazione di Grégoire Le Mercier: finché sei solo, sei diviso, sei due. Sì. Se vuoi diventare uno, devi essere coppia, devi unirti all'altro, e allora sarai uno con l'altro, e con l'altro creerai l'uno. Eh già. È molto bella questa citazione. Grazie Giulietta per averla letta. Senti, invece, io voglio sapere qualcosa di più prima di passare all'altro libro. Sì. Io ho visto che questi libri sono stati editati innanzitutto dalla tua casa editrice, perché sembra casa editrice Lucchini. Sì, è vero, perché ecco. Avevo attraverso la mia famiglia c'era questa ambizione di portare avanti questo discorso di editoria che mi intriga anche perché mi piacciono i libri così come sono fatti, guarda, materialmente prodotti. Sì. Però dopo sono successe cose per cui in famiglia il progetto si è un poco arenato, vedremo se si potrà riprendere. Bene, bene, no, ma mi fa molto piacere, anzi poi ti chiederò magari non così in radio, perché adesso ti lascio la parola, alcune informazioni. Senti, quindi questi libri li hai scritti anche in anni, diciamo nel 1988, 1984. Sì. parecchio tempo fa. Adesso ultimamente nella tua presentazione ho letto che hai parecchi testi inediti, quindi sì. Chissà che non ci sia magari un giorno, sì, un modo per... Vuoi continuare a leggere, diciamo... Sì, ma volevo dirti che ogni mio libro pubblicato ha segnato una perdita negli affetti più cari, perché così mi sono fermata dal pubblicare, garanzia. Invece potrebbe essere un omaggio che hai fatto alla persona che hai perso dedicando un libro. Guardala in modo positivo. Se ogni libro porta una perdita, ho detto basta, ma purtroppo se questo è il mio destino è ora di ricominciare, non si può fermare il futuro. No, infatti. Sì. Adesso passo al terzo libro. Sì, ok, grazie. Il terzo libro può dirsi psicologico, Type of Possibility, scritto in inglese in un periodo in cui parlavo, pensavo in inglese ogni giorno. Nell'insieme rappresenta la cifra di ciò che è possibile, basta volere, e anche il rincorrere qualcosa che non si trova. Leggerei quella che in conclusione è la prima poesia, pagina 17, e poi tradurrò in italiano. Sì, d'accordo. The vibrant youth, dizzying length of legs, and perfect countenance of the body, from the springboard the sudden launch to glorious swinging arabesque in the sky. Long immemorial moment, irremediably downwards, she plunges into cool water and disappears. Too soon, new mermaid of the pool, a mysterious breeder of storms, now underwater. La giovinezza vibrante. C'è una figura femminile in alto su un trampolino, pronta al lancio su una piscina. Vertiginosa lunghezza delle gambe e perfetto aplomb del suo corpo. Dal trampolino un lancio improvviso a glorioso d'ala arabescare nel cielo. Lungo momento immemorabile, irrimediabilmente volto al basso. Lei piomba in acque imperturbate e scompare troppo presto. Nuova sirena del lago, una misteriosa nutrice di tempesta ora sott'acqua. E con questo, certo, chiuderei questo sì, libro. Io ho visto, è molto, hai messo una bellissima dedica all'inizio, tratta da Emily Dickinson. Ah, sì. My life closed twice before it's closed. It yet remains to see if immortality unveil a third event to me. Sì. Perché? È perché questo in effetti appunto porta questo discorso che ti ho detto di perdita per due volte. Ok. E adesso vediamo che cosa succede, come diceva appunto Emily. Se per combinazione capiterà anche a me un tipo di immortalità. Però poi hai scritto un'altra poesia di Montale. Sì. E la legge Giulietta. La fortuna del tre non è opera del diavolo. L'uno è la solitudine, il due è la guerra, il tre salva la capra e i cavoli. Eugenia Montale. Grazie. Eugenia Montale, sì. Perché in effetti questo è il numero tre. E anche i numeri per me sono simbolici e do molta importanza alle cifre. Senti, qualcosa di particolare su di te prima di chiudere. Tu hai detto che hai parlato inglese, per tanto tempo hai pensato in inglese. Perché? Ce lo vuoi dire? Ah, beh, sì. Prima di tutto io anche ho insegnato in lingua e letteratura inglese nei licei scientifici e poi anche in corsi post-universitari e quindi era mio lavoro. E poi avevo un'amica che è vissuta con me un anno di New York, per cui avevo questa possibilità e questo esercizio quotidiano. Anche ho avuto ospite un'altra persona dall'Irlanda del Nord che mi ricorda poi sì? la poesia che avevo scritto nel libro Vivere il 2, quella di emotività, che non leggo perché è un po' lunga. Ecco. Io volevo ancora chiederti una cosa, Giuliana. Qual è il rapporto fra il te scrittrice e il te artista nel senso di delle arti visive? Il mio rapporto con le arti visive? Sì. Sì, è molto intenso ed è però condizionato al mio gusto. Cioè, certe cose mi piacciono, certe altre no. E infatti anche i miei libri sono tutti accompagnati da un gusto di visione oculare, perché lo sguardo è molto importante, e anche dalla musica. Mm-hmm. Ci sono sempre note di musica nei miei libri. Nei tuoi libri, sì. Senti, sottolinea anche questa mia disposizione al ritmo. Sì. Sì. Perché la poesia è musica, così in un senso o nell'altro. Sai perché ti ha fatto questa domanda, Giuliana? Sì. Perché Giulietta, una volta al mese, all'interno della tela sonora, si occupa del programma Hic et Nunc. E magari, Giulietta, gliene vuoi parlare? Perché così, Giuliana, insomma, sì, il valore che ha la parola con la musica. Quindi per noi non è soltanto poesia quella che cerchiamo di fare alla tela sonora, ma ecco, proprio sì, mettere in valore questo aspetto ritmico e anche più puro o immediato della poesia, che è ciò che la distingue forse anche dalla prosa. Eh sì, infatti, è quello che è anche aderente al mio gusto, mentre invece oggigiorno molto spesso si vede la poesia ridotta a prosa. Mm-hmm. Il che non sempre mi piace, per quanto sia aperta ai gusti anche altrui. Ho scritto recentemente una specie di meditazione sulla poesia che sarà pubblicata in una rivista online, ve la farò poi avere. Grazie. Senti, prima di salutarti invece, leggici allora questa poesia di emotività, ovvero un amore irlandese. Ma è il quarto libro, non lo volete sentire? Ah, c'è ancora qualcosa? Sì, ci il quarto libro è sperimentale. Ah, linea è vero, è vero. Vai, allora, perché non ce l'ho, vai. Tentativo di esprimersi in un linguaggio diverso, fuori dai canoni tradizionali. Uh-huh. Faccio anche qualche esempio più semplice. Comunque il titolo, Linea di corpo. Ah, eccolo, rivaluta sì. La bellezza fisica, il corpo, la parola, dopo che si è sviscerata l'anima in ogni cosa, eccetto il primo libro, nei libri qua e là c'è anche l'ironia che gioca il suo ruolo. Di qui non so che cosa, quanto tempo abbiamo, cosa posso trovare, magari uno qualunque che mi capita, oppure sì, direi una cosa più seria. No, direi di sì, come ti viene, perché abbiamo alcuni minuti ad apertura di pagina. Sì. Allora prenderei questo inconsustanziale, il suo corpo, marina di velieri, rondini e rocce pulpiti, dalle polene in lontananza palpiti di sciacquio, freddo il campo si illumina, si infanga, allora consacrata ombra incorporea, ancora s'apre il suo corpo libero, si sfoglia, viene dalle nubi al cerchio l'oro, attarda l'ostia a una tenaccia di licheni, segue il suo passo lo sfioro del guizzo, l'onda non trova la meta al romorio, volo di pipistrello basso di ritorno, ansimo si concerta di carne pagina, all'arco stretta dello spazio d'appresso allo squittio. Questa è una breve. Poi ce ne sarebbe una più lunga, che è scritto dopo aver visitato le tombe etrusche a Cerveteri vicino a Roma. Non so se vi interessa. Ci interessa, però purtroppo non abbiamo tempo, ti dobbiamo lasciare. Comunque ti invitiamo. Ti ringraziamo molto. Infatti, ti ringraziamo e soprattutto ti invitiamo a mandarci il tuo articolo, che sì, provvederemo a pubblicare sul blog della Tela Sonora, e sarà un modo per tenerci in contatto e per tenere grazie in contatto. Grazie molto a voi e agli ascoltatori. Bene. Spero di essermi fatta capire in qualche modo. Sicuramente. Certo, sicuramente. Ti ringraziamo e ringraziamo anche Anna Maria Farabi, che è stata al contatto. Sì, anche io la ringrazio. Un saluto particolare. Un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao Giuliana. Buonasera. Eccoci di nuovo, Giulietta e Gabriti, abbiamo Federica Trenti, leggerò alcune cose che lei mi ha scritto e poi diciamo l'abbiamo in diretta, quindi ci tenevo a leggere una lettera che lei mi ha mandato. Mi chiamo Federica Trenti, ho avuto l'indirizzo dalla poetessa Anna Maria Farabi. Anna mi ha accennato alla sua rubrica culturale trasmessa da Radio Alma. Come può vedere dalla copertina, si tratta degli atti di un convegno dedicato a Joyce Lussu e quindi abbiamo deciso di chiamare Federica a rappresentare questa donna, sibilla del Novecento, che ha scritto ed è poco conosciuta. Abbiamo approfondito la figura di questa donna, che è stata una protagonista dell'antifascismo, un periodo del quale la Lussu ha raccontato in ogni suo testo. Una stagione profondamente presente nei suoi scritti, nei rapporti che ella ha intessuto nell'arco della sua vita, nella sua poesia. Federica si occupa di Joyce Lussu dal 1998, anno della sua morte. Purtroppo non ha fatto in tempo a incontrarla. Si è laureata in storia contemporanea con la tesi La vita e l'opera di Joyce Lussu. Pian piano ha corretto e riscritto la tesi ed oggi ha un manoscritto a cui ha dato il titolo Il Novecento di Joyce Salvadori Lussu, una biografia che spero di poter pubblicare prossimamente. Grazie a Vittoria Ravagli, persona seria e appassionata, che alcune iniziative sulla Joyce Lussu hanno preso corpo ed è quindi probabile che ne seguiranno delle altre. Ringraziamo tra l'altro Vittoria Ravagli, che ha partecipato lo scorso venerdì alla Tela Sonora. Personalmente ho trovato con Vittoria la possibilità di continuare a parlare e a confrontarsi in merito a questa figura di donna che ritengo abbia ancora tanto da dire e di cui testi scritti fra gli anni 70 e 80 ci sorprendono per l'attualità degli argomenti trattati. E poi va ancora avanti descrivendo quindi la Sibilla, e lasceremo quindi adesso a Federica l'onore di introdurci a questo personaggio. Ci sei, Federica? Sì, ci sono, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera. Ci diamo del tu in radio, quindi so che sei emozionatissima perché hai un compito, ma tranquillizzati perché tanto stasera tutto quello che doveva succedere è già successo, quindi non possiamo altro che andare in positivo. Quindi con questa lettera abbiamo introdotto un attimino la figura di Joyce Lussu. Non so quanti nostri amici radioascoltatori abbiano avuto l'onore e il piacere di leggere i suoi scritti, ed è per questo che ti abbiamo invitato questa sera qua in radio e ce ne parli te. Con semplicità, con passione, perché da quello che ho capito è veramente per te molto importante questo lavoro che stai portando avanti, e magari poi ci racconti anche qualcosa di te, non soltanto della Joyce Lussu. Ti ricordo semplicemente che La Tela Sonora è un programma orientato alla poesia, quindi Joyce ha scritto parecchio, anche in prosa, e se hai occasione di leggerci alcune poesie, direi che è il momento giusto, perché La Tela Sonora vuole proprio questo. Ti lascio il microfono. Senz'altro, io ci proverò, però fatemi anche delle domande, sì, o interrompetemi per qualsiasi curiosità. Io mi sono preparata uno scritto, perché su Joyce Lussu c'è da dire veramente tanto e non so quanto tempo ho a disposizione. Una ventina di minuti. Allora va bene quello che ho preparato, siccome so che è un programma che si occupa di poesia, ho cercato di tenere la poesia come perno del mio racconto. Perfetto. Che non è propriamente un racconto, è una veloce descrizione di come ho conosciuto Joyce, mm-hmm. che, come hai ricordato, non ho mai incontrato di persona, però che sto seguendo da tanti anni alla ricerca dei suoi testi e delle poche altre testimonianze che ha lasciato. E il mio interesse per Joyce Russo è nato all'università. E la prima volta che ho sentito parlare di lei è stato durante una lezione della professoressa Dianella Gagliani, che è docente di storia della Seconda Guerra Mondiale. Sì? Ti seguiamo. Sì, docente di storia della Seconda Guerra Mondiale e dei movimenti partigiani all'Università di Bologna. D'accordo. La citava in riferimento ad una citazione che Joyce faceva nel suo libro Lotte, ricordi ed altro, e riguardava il concetto di famiglia antifascista, cioè la famiglia coinvolta nella resistenza, che secondo Joyce cessava di essere una famiglia tradizionale, mm-hmm. proprio perché è un nucleo all'interno di una società che voleva uscire dalla dittatura e pertanto lottava per cambiare. Perciò i suoi componenti si impegnavano a costruire una alternativa possibile e dovevano riuscirci passando attraverso il tormento della guerra. Quello che io credo di avere recepito subito da ciò che poi in un secondo momento ho letto di lei è stata questa cura della ricerca di un'alternativa, mm-hmm. che a me personalmente ha dato sempre un senso di speranza, ma anche di coinvolgimento. E devo dire che, sebbene quello che leggevo era stato scritto 30 anni prima, mi accorgevo sempre di più che riguardava il mio presente, per esempio riguardo ai gravi squilibri derivanti dalla globalizzazione, alla pace che non c'è, alla salvaguardia del pianeta Terra come casa comune, come la casa di tutti, come la chiamava Joyce e come era stata abituata a considerarla fin da bambina. E soprattutto mi riguardava non solo come studentessa che proponeva di scrivere la biografia come tesi di laurea, ma in quanto cittadina e in quanto giovane donna. Sì. E non da ultimo devo dire che la figura di Joyce è molto affascinante e ha suscitato indubbiamente il mio interesse anche solo come figura di donna, ecco. Perché? Perché? Perché? Perché innanzitutto vidi una sua fotografia casualmente su una rivista di moda ed era così bella, così vestita in modo particolare, con questa gonna lunga variopinta e le spadriglie a sei piedi, ed era una ottantenne, mi sembrava un'immagine molto molto calda, molto e molto colorita. Sì, e è vero. Quando lessi la didascalia, che era Joyce Lusso, quella che poche settimane prima avevo sentito nominare all'università, cominciai a leggere questo articolo in cui parlava della civetteria, che è poi anche il titolo del libro che ha scritto insieme all'amica Luana Trapè. E diceva delle cose che mi hanno molto colpito per la semplicità, ma anche per un senso di gentilezza che traspariva dalle sue parole. Per esempio? Per esempio? Ora esattamente le parole non le ricordo, però che la civetteria vista come io non l'avevo mai vista, ma come un modo di porsi nei confronti degli altri, non la civetteria intesa come civetteria con un uomo, uh-huh. che può essere anche quello, però è anche la civetteria della cura di sé e dell'essere piacevoli nei confronti del prossimo, ma perché è un lavoro prima di tutto di rispetto di sé. Interessante, e beh, questo è molto molto profondo, perché chi rispetta se stesso e chi ama se stesso è poi il candidato ideale per amare e rispettare gli altri. E infatti proprio quello che passa da un articolo breve, molto semplice come quello, era anche una predisposizione a una società di pace, a una società mm-hmm. Dove il criterio fondamentale fosse una convivenza sana, certo. Partendo da sé, però, dalla responsabilità che ognuno si deve assumere per creare questo tipo di società. E devo dire che è stato anche un po' quel breve articolo a innescare la mina che mi ha fatto correre poi per le biblioteche di Bologna a cercare quei testi che sono riuscita a trovare. Poi per trovarli tutti ho dovuto impiegare molto tempo. Senti, subito così, una poesia che vuoi leggere? Sì, vediamo. Per esempio... Anche più di una. Leggere Vai, sì. La poesia, non so, Sardegna, anche se è molto lunga, siccome la Sardegna è stata una parte importantissima della sua vita, che ci impone di parlare dell'uomo della sua vita, che è stato Emilio Lussu, certo, e alla quale lei è fortemente legata. Ci sono due luoghi dell'anima per Joyce, che sono le Marche, sono la terra dove è, in parte è cresciuta, dove ci sono le sue radici, e poi la Sardegna, che lei chiama la terra dell'innesto, proprio perché si è sentita innestata in questa terra che negli anni ha conosciuto e amato moltissimo. E, ok, leggici la poesia. Sì, allora. Sardegna, da quando mi è apparsa oltre il limite la tua immagine, andavamo per i prati verdi, per i boschi verdi di lontani paesi, dove la lunga primavera irrora di rugiada ogni notte le ricche messi, dove l'aratro lucente solleva la zolla grassa e nera, dove lunghissimo è il solco e sulle coste dei monti si alternano a distanze uguali gli abeti numerati e i faggi. Nella mia terra, diceva l'esule, nella mia antica terra, è breve il solco e dura la zolla. Spesso la lama dell'aratro stride e si smussa sul granito implacabile. Breve è la primavera e lunga è la fatica estiva nella mia terra. E la foresta animosa e selvaggia s'abbarbica tra la pietraia senza legge. Vedevamo gli uomini andare al lavoro cantando, ai campi, alle officine, e tornare nelle case bianche dalle finestre fiorite, e trovare la zuppa grassa sul tavolo incerato della cucina, e i bimbi grassi e rosei dai chiari occhi. Nella mia terra, diceva l'esule, l'uomo non canta quando affonda la vanga nella terra riarsa. Non canta quando conduce i greggi al pascolo rado o scende nella miniera. La sua fatica diurna è lunga la galera, senza gioia, e i bimbi hanno già nei loro occhi d'ombra la pena millenaria. Sardegna, scheggia di un continente più antico, crinale e eroso, rugginoso, come una spada dimenticata che nessuno raccoglie. Non sono le tue spoglie belle che io cerco per la gioia dei miei occhi. Non i costumi splendidi delle tue donne diritte e aduste, non l'orbace che cinge i petti larghi dei tuoi re pastori, non l'incompresa parvenza dei tuoi furori freddi e delle tue pittoresche vendette. Non è questa la Sardegna. Io cerco il tuo sentire diverso, racchiuso nel tuo chiuso animo come una volpe ferita. Cerco l'immagine della vita nella tua fatica difficile, nei tuoi dirupi di granito, nelle tue distese d'ogliastri e di lentischio, su quei colli orgogliosi e imperdi come montagne, cui non danno dolcezza nemmeno le prime nebbie dell'alba, o le ombre case dei tuoi tramonti. Io cerco di far mia la solitudine, tua solitudine, che ha un'armonia diversa, la cui eco si smorza nel silenzio dei tuoi uomini, che affrontano ogni giorno la natura nemica senza tregue, delle tue donne che portano alta la testa sul collo alto celato dalle bende, e ogni giorno si affaccendano quietamente attorno al focolare con pazienza sdegnosa. Finita. Non so se ti sei resa conto che Giulietta in certi brani, certi pezzi della poesia, in certe rime ti ha seguito e ha letto anche ti lei. Ti ho fatto da eco. Sì, infatti sentivo. Ok, senti, sì. Diciamo che questa poesia l'hai letta, diciamo, con molta passione, anche velocemente. Meriterebbe tutto il tempo per essere sviscerata passo dopo passo, parola dopo parola. Però qual è la lettura che tu hai dato a questa poesia? Cioè, io ho percepito alcune parole, la sofferenza, il valore che la Joyce Lussu dà agli uomini che sono lì per proteggere, per combattere in guerra, che hanno sofferto, che hanno perso probabilmente anche dei cari. Qual è il valore di questa donna, quindi, molto terrena, molto, molto bella, ma nello stesso tempo anche una donna di speranza, una donna che sa dare il valore alle persone, ma che anche incita alla vita, come dici te, armonica, in armonia, alla pace. Sì. Ecco, qual è il tuo proposito? Dopo aver conosciuto una persona così, come ti senti di portare avanti il lavoro di Joyce e di trasformarlo, perché poi diventa il tuo lavoro, perché è un po' come se avesse lasciato un'eredità a te? Sì, io, oddio, l'ha lasciata a me, diciamo che attraverso di me cerco di, che quello che io cerco di fare, e sinceramente mi sento di dire molto umilmente di fare, è quello di limitarmi ad un ruolo di chi ha studiato storia e si è formata, ha avuto questa formazione, questa disciplina storica, per cui cerco di rendere la sua storia, la sua biografia, perché intanto rimanga. Poi è chiaro che in me sono passate delle cose, e non è un caso che poi io abbia scelto personalmente di parlare di lei, che mi coinvolgono molto e che continuano ad essere parte di me, per cui continuo a parlare di lei, continuo a parlare delle tematiche di cui anche lei parlava. È sicuramente diventata una parte di me. Ti ha cambiato in qualche modo? Credo di sì, perché anche attraverso un processo molto faticoso, perché non è facile amare Joyce Lussu, perché comunque una donna di un temperamento che si capisce anche dai suoi scritti e da come li ha scritti, molto forte. Era difficile sicuramente avere un rapporto con lei, però devo dire che anche quando c'è stato un momento in cui avrei voluto lasciar perdere tutto, perché mi sentivo anche inadeguata, non ci sono riuscita, perché mi sembrava che lei rimanesse dietro la porta con qualcosa da dirmi. E io alla fine ho sempre continuato, e credo di esserci riuscita in qualche modo a scrivere quella che è la mia visione di Joyce Lussu, però la mia, chiaramente. La tua. Sì, mi ha cambiata, mi ha aiutata, diciamo, a crescere, mi ha dato nuovi stimoli, mi ha acceso la curiosità. Senti, ma non ci hai mai pensato a creare un'associazione Joyce Lussu per aiutare altre donne? Perché io trovo che tu hai parlato di globalizzazione, hai parlato di tante cose, ma siamo anche un po', come dire, questa povera donna, la donna viene chiesto molto, viene chiesto di essere perfetta in famiglia, di essere perfetta in società, di essere bella, di essere vestita bene, di avere tutte le carte in regola, di essere sempre snella, di avere anche una carriera, possibilmente guadagnare. Quindi queste povere donne sono veramente massacrate. Parliamo del sesso forte, ma io invece lo vedo quasi come un compito sempre più arduo, riuscire ad essere una perfetta donna femminista, nello stesso tempo mamma, donna amante e tante altre cose. Quindi perché invece non con semplicità portare avanti il lavoro della un'idea di Joyce Lussu, centrando invece il personaggio della donna più sulla sua forza così di terra, donna che sa affrontare le situazioni, che sa essere femminile, ma quindi donna anche forte. Non ci hai mai pensato? Personalmente no, per no. Il fatto che un'associazione Joyce Lussu nelle Marche esiste già. Ah, ecco. E poi, però, io credo che la cosa più bella l'abbiano fatta alcuni anni fa dei ragazzi di San Benedetto del Tronto, di un posto che si chiama Libera Comunanza, dove un gruppo di ragazzi fanno agricoltura biologica. E loro hanno curato, penso con una certa difficoltà anche, la riedizione di un libro molto importante di Joyce, che è L'acqua del 2000. E ne hanno ristampate diverse copie. I proventi di quel libro sono stati devoluti a un'associazione di donne messicane, Comisión de Mujeres, credo si chiami. Di dove? Poi non so però sinceramente quali altre attività questa. Senti, ti interrompo per leggerti una cosa che mi ha affascinato quando nel libro. Quando Joyce va in Kurdistan e sulle orme della poesia di Nazim scrive. O Nazim. Forse la poesia è proprio questo, portare dentro di sé un mondo che non c'è, ma che ci potrebbe essere migliore. E sì, poi infatti c'è una bellissima poesia Parlare della poesia di Joyce Lusso significa parlare del mondo e di quanto eticamente debba stare nel mondo l'essere umano poeta. E c'è una bellissima poesia sulle scarpette rosse. Sì. La vuoi leggere? La leggo io? Pagina 57. Sì, certo. Vai. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette rosse in cima a un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere castane a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla, i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse, di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Bene, abbiamo praticamente quasi terminato la puntata, è volato il tempo. E ti ringrazio per la lettura di questa poesia, perché io credo che non ci siano confini. Qui alla Tela Sonora non ci siano anche come dire, idee politiche, e l'idea di Joyce di creare armonia è, diciamo, un po' il nostro obiettivo, quindi non casualmente sei stata invitata. In questo periodo ci sono determinati così eventi che stanno capitando nel mondo. Ci sono alcune cose che personalmente, questo lo dico a nome mio, non capisco, ma in quanto donna ho fiducia che ci possa essere un ripensamento, una riflessione. Quindi se ci vuoi salutare magari con un pensiero tuo, che non deve essere per forza di Joyce, ma può essere tuo personale. Ed è un invito a tenerci in contatto, a tenerci così aggiornati, perché puoi scrivere all'email che tu ormai conosci, potrai scrivere anche a Giulietta. Facci sapere come continuano i tuoi lavori sulla ricerca di questa donna eccezionale, che è mancata, quindi di una certa età, ma che è così moderna e contemporanea. Senz'altro. Raccontaci qualcosa che per lasciarci, perché hai un minuto e mezzo praticamente, un saluto a noi che siamo qua a Bruxelles, un saluto alla radio, una tua emozione che è così fuoriuscita, che noi raccogliamo nella tela sonora. La mia emozione è molto grande in questo momento, è la prima volta che mi capita di partecipare a una trasmissione radiofonica, ma soprattutto parlando sento che Joyce mi emoziona ancora molto. Sono, devo dire, anche orgogliosa di avere raccontato la sua storia, perché comunque le sue idee poi possono piacere o non piacere, però io credo fortemente che si debba in qualche modo continuare a ricordare e a non dimenticare. Joyce ha rappresentato anche un periodo della nostra storia che in qualche modo in questi tempi ci chiedono di difendere, ed è la cosa che io voglio fare. Bene, e noi siamo con te, ti ringraziamo per averci così illustrato e presentato e fatto conoscere questa donna meravigliosa. Un grande saluto, un bacio. Grazie Federica. Grazie di cuore. È andata benissimo, hai visto, te l'avevo detto, te l'avevo promesso. Grazie di tutto e grazie della pazienza. Grazie a voi, un bacio. Buonasera. Allora, caro regista, abbiamo un minuto di tempo, quindi non so. E magari chiudi la comunicazione con Federica. E voilà, allora mandiamo un po' di musica. Vi salutiamo, Giulietta. Sì, vi salutiamo come sempre. Vi presento l'appuntamento per venerdì prossimo. Domani credo che riusciamo ad andare in onda. Abbiamo battezzato Giulietta l'eco della tela sonora. Grazie a tutti. Perfetto, grazie. 21h.